Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Non insegnate ai bambini. Non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata. Potrebbe far male. Molti ragazzi magari non sanno neanche chi sia Giorgio Gaber, o lo hanno ascoltato qualche volta grazie a mamma e papà o a qualche nonno. Ora però lo conosceranno meglio, perché arriva l'ora di lezione di Gaber, inserita nell'ora di educazione alla cittadinanza e Costituzione. Questo è il progetto del Ministero dell'Istruzione e della Fondazione Gaber, un progetto che partirà dalle scuole superiori. Il concorso Giorgio Gaber, parole per pensare, una serie di lezioni spettacolo. La figlia Dalia Gaberschik al microfono di Marta Cagnola. Mio papà aveva molto piacere a fare questi incontri con i giovani nelle scuole, nei licei, ma anche nei teatri. Promuoveva da sempre gli incontri perché considerava il confronto e la discussione forse la cosa più bella che seguiva al suo lavoro. Allora, sulla scorta di questa sua esperienza di incontro, noi abbiamo promosso con la Fondazione Gaber già dal 2003 alcuni incontri nelle scuole, proponendo filmati attraverso magari la testimonianza anche di docenti che lo conoscevano, ma anche di giornalisti amici, alcune volte anche di artisti. E quando Iacchetti ha lanciato questa piccola provocazione dicendo ma io vorrei che Gaber fosse insegnato nelle scuole, il ministro Gelmini ha risposto ironicamente ma sì dai parliamone, abbiamo colto la palla al balzo per dire beh allora però le diciamo che cosa stiamo facendo e che tipo di aiuto avremo bisogno. E adesso è al vaglio un progetto pilota, per ora solamente nelle scuole della Lombardia, proprio con questa formula della lezione spettacolo. Non con la presunzione di insegnargli Carducci, ma con il desiderio di mettergli una pulce nell'orecchio che magari c'è stato un signore divertente che parlava di cose importanti senza annoiare mai. Ora parliamo invece dei più piccoli, dei bambini della scuola di infanzia di Milano, perché genitori ed educatori sono molto preoccupati in questo periodo. La vicenda è questa. Qualche giorno fa, ad iscrizioni già chiuse, alle famiglie è stato consegnato un foglio con cui il comune chiede alle famiglie di scegliere l'orario di frequenza per i propri figli all'interno di un orario complessivo che va dalle 8 alle 18. Attualmente l'orario base è dalle 9 alle 16, solo pochi bambini frequentano nelle fasce estreme, cioè dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 18. Infatti i bambini vengono raggruppati in una classe con una o due insegnanti e questo consente di lasciare libere molte educatrici negli orari di massima frequenza e consente loro quindi la compresenza pressoché su tutta la giornata. Compresenza peraltro sempre più importante con l'arrivo dei morattini, i bambini cioè di 2 anni e mezzo, quindi spesso con il pannolino, non autonomi in bagno, eccetera, eccetera. La preoccupazione invece che non raggruppando più i bimbi di tutte le classi e di fatto allungando l'orario di ciascuna classe salti la compresenza delle educatrici su gran parte della giornata. Ci siamo fatti una chiacchierata con l'assessore alla famiglia, scuola e politiche sociali, Mariolina Moioli. Le due maestre non possono assolutamente essere presenti lungo tutto l'arco della giornata. Non è così neanche oggi. Se le famiglie sceglieranno questo modello, insieme con i consigli di scuola valuteremo che tipo di orario scolastico dare, perché oggi c'è una concentrazione molto stretta delle attività educative. Invece i bambini piccoli soprattutto hanno bisogno di dilazionarla questa giornata educativa. Ma lei è convinta della necessità di un grande numero di ore in cui le maestre siano compresenti? Il maggior numero possibile di ore, dove noi dovremo trovare un equilibrio tra l'esigenza della famiglia e la pianificazione delle attività didattiche. Perché lei attualmente, come lei saprà, la compresenza è praticamente su quasi tutta la giornata, a parte i due estremi. Sì, a parte un'ora. No, no. Glielo dico perché ho dei figli a scuola dall'infanzia. Però che cosa succede? Che siccome c'è un'unica persona dalle 3:30 alle 6, se questa persona non è presente, chiamano le famiglie e fanno portare a casa i bambini. Allora lei deve sapere che qualche volta la mamma è in grado di poter mandare qualcuno a prendere il suo bambino, ma in una città grande come la nostra noi abbiamo le famiglie che spesso sono sole e questo ha creato grandi disagi. E anche per questo che noi vogliamo ridistribuire anche la presenza delle educatrici in modo più largo. Calcoli che se io ho 6 sezioni in una scuola, non ho 12 insegnanti, ho 14 insegnanti, e quindi si farà un ragionamento proprio anche di presenza delle insegnanti a partire dalle 8, magari di meno dalle 4 alle 18, sulla base evidentemente delle esigenze dei genitori. A 4 anni dalla maturità, quasi il 66% dei diplomati degli istituti tecnici industriali ha un'occupazione. Fra i diplomati degli istituti professionali risulta invece occupato oltre il 71%. Lo dice una ricerca del Censis, che la dice lunga sul valore di istituti tecnici e professionali che, come abbiamo raccontato spesso anche in Obbligo di Frequenza, stanno per cambiare volto. Ci sarà infatti una riorganizzazione con solo 2 settori, economico e tecnologico, e 11 indirizzi. Il percorso di 5 anni si articola in 2 bienni e 1/5 anno. Si passa da 36 a 32 ore settimanali e si avvarranno di più laboratori e stage. Insomma, la struttura è ormai chiara, ora manca solo il regolamento. Il ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini, al microfono di Vincenzo Miglietta. La riforma dell'istruzione tecnica ha proprio questo significato: far entrare il mondo del lavoro a scuola e garantire quindi occupazione. Avremo un forte impegno sul fronte delle lingue. Sappiamo che oggi nel mondo del lavoro è fondamentale la conoscenza dell'inglese ma anche delle lingue straniere, quindi andremo a potenziare l'insegnamento di queste materie prevedendo nell'ultimo anno anche la possibilità dell'insegnamento di una materia che potrebbe essere la matematica o anche la storia in inglese o in una lingua straniera. Poi la possibilità di tenere tirocini e stage in azienda, e quindi il coinvolgimento del mondo produttivo è indispensabile per garantire esperienze lavorative. E poi ci sarà un monitoraggio sull'occupazione, perché vogliamo che non solo potenziare il numero dei profili tecnici, ma anche far sì che i profili in uscita siano rispondenti alle esigenze. Oggi abbiamo un problema legato al fatto che è molto più ampia la domanda rispetto all'offerta, ma abbiamo anche una difficoltà di incontro fra il tipo di profilo tecnico richiesto dalle aziende e quello che sforna la scuola. E i dati sulle iscrizioni fanno ben sperare per il prossimo anno. C'è infatti una ripresa dell'interesse delle famiglie per gli istituti tecnici, anche forse in tempi di crisi economica. Gianfelice Rocca, responsabile education di Confindustria, ancora al microfono di Vincenzo Miglietta. Gli istituti tecnici rappresentano proprio una risposta in avanti a questi problemi. Comunque l'Italia uscirà da questa situazione, uscirà attraverso le imprese innovative, tecnologiche, orientate all'esportazione. I profili tecnici sono quelli necessari per questo tipo di attività. Oggi comincia una rilucidatura, direi, di una vecchissima tradizione di grande importanza che sono gli istituti tecnici. Hanno rappresentato la forza dello sviluppo di questo paese e possono rappresentare il futuro, perché i profili tecnici di cui hanno bisogno le imprese sono diversi, sia quelli dei diplomi di 18 anni, sia quelli a 19, cioè i tecnici, i diplomati plus, dico io, sia le lauree brevi, sia i laureati tecnici, sia i ricercatori. Quindi stiamo lavorando su una filiera in cui gli istituti tecnici rappresentano un elemento importante. Quindi ecco, una filiera in cui il giovane si è già preparato dal mondo scolastico per poi inserirsi maggiormente nel mondo del lavoro? Ma qualunque istituto tecnico, qualunque preside di istituto tecnico deve avere un po' a cuore il piazzamento, il placement dei suoi studenti, perché gli offre una libertà di poter entrare nel mondo del lavoro o di poter proseguire gli studi universitari. Il mondo del lavoro, cioè il mondo delle imprese, è un mondo ricchissimo, fatto di innovazione, di passione. La possibilità per i giovani di partecipare a questo mondo e di vederlo da vicino è una forma per rispondere anche a certe mancanze vocazionali. Quindi laddove questo funziona, vedi il caso del Veneto dove come Confindustria facciamo grandi rapporti di collaborazione, immediatamente si vede che i risultati degli studenti migliorano enormemente. Ci sono delle tipologie che le vengono in mente così che possono in questo momento di crisi internazionale ed italiana essere maggiormente appetibili per i giovani? Ma basta vedere tutte le attività della filiera della meccanica. Se voi pensate, per esempio, alla possibilità di collaborare strettamente fra un istituto tecnico, per esempio Emiliano, e la Ducati, la Ferrari, sono tutti casi in cui i giovani partecipano alla vita di società dove vedono immediatamente le potenzialità. Questo vale per l'industria meccanica in generale. Io ricordo che l'industria meccanica italiana ha un valore aggiunto maggiore di tutta l'industria farmaceutica europea. In questa industria meccanica c'è una quantità infinita di possibilità per i giovani. Se le scuole si avvicinano a questo mondo, i giovani parteciperanno fin da giovani a vedere che cosa succede e quindi avere delle vocazioni e scegliere il proprio futuro. Il governo si sta muovendo nella giusta direzione secondo lei? Il governo sta muovendosi nella giusta direzione anche perché dà continuità a un lavoro che è nato anche precedentemente. Quindi è un lavoro bipartisan che parte da lontano e che ha bisogno oggi di realizzazione. È un lavoro complesso, ma mi sembra che ci sia un impegno collettivo per renderlo esecutivo. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12:45.